Ecco, io de devo subito chiedere scusa per aver dato un titolo così vasto a questa comunicazione, che poi naturalmente parlerò di un argomento un po' più modesto, e cioè ho tentato di fare un pochino di tipologie di conflitti che si legano alla visita pastorale. Questo naturalmente da un certo punto di vista lascia fuori conflitti magari anche più importanti come quelli che possono nascere intorno all'Inquisizione, all'attività dei nunzi, al ruolo dei gesuiti, eccetera, eccetera. Però, insomma, intanto il seminario era sulle visite. Poi ho tenuto presente l'osservazione fatta da Donati in quel saggio che ha scritto sui vescovi. Nel volume curato da Rosa sul clero nell'Italia moderna, che non bisogna esagerare a sottostimare poi il ruolo dei vescovi anche nel Seicento, dopo la grande ondata dei vescovi riformatori della seconda metà del Cinquecento. E poi, ultima osservazione, penso che certe tipologie di conflitto sono abbastanza simili, diciamo, magari quelle su altre questioni possono essere più grandi, investire problemi più generali, ma dal punto di vista dei meccanismi forse poi ci sono anche tanti punti di contatto. Nelle visite sono registrati dei conflitti, ma la visita stessa poi è fonte di conflitto, in quanto, come ci ricordava opportunamente ieri Turchini, è un istituto che si sovrappone ad altri istituti. Ecco, il primo ovvio caso è quello di conflitti sulle esenzioni o pretese esenzioni dall'ordinario, l'occapia, regolari, classici scontri fra vescovo e capitolo cattedrale. Sull'occapia poi naturalmente sentiremo Turchini, evidentemente è un problema sul quale facilissimamente si apre un conflitto Stato-Chiesa perché c'è il tentativo da parte della Chiesa di recuperare posizioni che ha perso alla fine del Medioevo per il processo di riappropriazione e riorganizzazione degli ospedali che avviene in genere nelle città italiane alla fine del Medioevo. Per quel che riguarda i regolari e i capitoli cattedrali, i conflitti potrebbero rimanere all'interno della sfera ecclesiastica, però evidentemente anche qui, data l'importanza che hanno le monache, per esempio, o i canonici delle cattedrali per la vita della società civile, anche questi conflitti investono immediatamente il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa. Ecco, quello che io ho fatto è individuare alcuni punti, alcuni aspetti, alcuni esempi e cercare, non di proporre, ma di ricordare che è stato proposto un modo di interpretare questi conflitti che non sia, che diciamo non obbedisca a una logica di giurisdizionalismo nel senso un po' settecentesco, addirittura ottocentesco, nei rapporti fra Stato e Chiesa. E comincio per esempio con una situazione che sarebbe un classico scontro giurisdizionale e legato anche al diritto di visita pastorale, come quella che è stata ricostruita in un capitolo del libro di Greco sulla parrocchia a Pisa in età moderna. Greco ha studiato i conflitti che nella seconda metà del Seicento spesseggiano fra l'ordinario e i cavalieri, questa è un'altra tipologia ancora che prima avevo dimenticato di esenzione, i cavalieri dell'ordine di Santo Stefano, i quali combattono lungamente per visitare o per non essere visitati. È classico conflitto di giurisdizione perché il gran maestro dell'ordine di Santo Stefano è il Granduca Cosimo III. A un certo punto, per risolvere questa conflittualità epidemica, il Granduca cerca di erigere in abbazia nullius il priorato di Santo Stefano in Piazza dei Cavalieri e in un certo senso di creare una specie di diocesi nella Piazza dei Cavalieri, un enclave all'interno dell'arcidiocesi di Pisa. C'è una grossissima questione, un grande incontro, scontro, trattative, eccetera, che finisce negativamente per questo progetto, ma quel che mi pare interessante è la spiegazione che Greco ne ha dato. Un conflitto che non si intende tanto in termini giurisdizionali, ma come una specie di progetto di piccolo gallicanesimo che il Granduca di Toscana cerca di attuare e che va inteso sullo sfondo della figura sacrale che egli stesso ha come Gran Maestro dell'Ordine di Santo Stefano. Il caso per eccellenza dell'offensiva giurisdizionale della Chiesa nella seconda metà del Cinquecento è naturalmente quello di Carlo Borromeo. Io sono ben lungi dal possedere tutta la sterminata bibliografia borromaica. Ho adoperato però, per esempio, tutti gli articoli che ha fatto Angelo Giorgio Ghezzi su questo tema, che mi pare in sostanza mostrano come una grande personalità di riformatore potesse trovare il modo diretto o indiretto di esercitare la sua autorità di ordinario nei confronti delle esenzioni. Caso classico qui proprio i monasteri femminili e i Locapi, l'ospedale maggiore di Milano. Naturalmente io non è che propongo un'insensata revisione del carattere di riaffermazione dell'identità e autorità ecclesiastica nell'azione del Borromeo, ma penso che sia giusto cogliere, come del resto fa Ghezzi nei suoi saggi, la dimensione politica di questa operazione, quella che già aveva indicato Prodi in un vecchio saggio del 1957. La fase più acuta dello scontro è legata anche a una incompatibilità personale fra il Borromeo e il governatore spagnolo e poi tutte le complesse vicende di questo scontro, che adesso naturalmente non posso ricostruire in dettaglio, sono sempre da intendere sullo sfondo delle trattative fra Roma e Madrid. Lo scopo del Borromeo non era un'astratta affermazione dell'autorità ecclesiastica, ma era, come spiegava Prodi già in quell'articolo del 57, il tentativo di ottenere la collaborazione dello Stato all'opera di riforma. Cioè studi come questi, poi studi che vanno anche molto, con molta precisione nel dettaglio, come quelli di Ghezzi, mostrano inoltre molto bene, confermano molto bene un'idea che si poteva presumere, che cioè, anche volendoli definire come due campi opposti, Stato e Chiesa non sono poi due blocchi omogenei. Si pensi al ruolo che in tutta la vicenda esercita il cardinale Alciati in curia come rappresentante degli interessi della nobiltà milanese. O si pensa a quell'episodio che è stato ricostruito da Ghezzi a un certo punto di quel giudice di tribunale laico milanese che per un rigiro un po' complesso a un certo punto si trova a essere scomunicato, ma si trova a essere scomunicato nel momento proprio in cui sta cercando in realtà di collaborare col Borromeo all'opera di riforma. Ecco, questo per dire che impostare solamente da un punto di vista giurisdizionale lo studio di quella straordinaria, abbondantissima mole di conflitti, quella conflittualità perenne che si incontra studiando i rapporti fra Stato e Chiesa nell'età moderna, anche studiandoli dal punto di vista delle visite, porterebbe a perdere un pochino la dimensione concreta e politica della questione, che è quella che proprio parlando del rapporto fra chierici e laici in San Carlo Borromeo ha definito qualche anno fa, secondo me molto felicemente, Prosperi. Ci faccio una citazione di tre righe. Per il resto, se togliamo la cioè lui dice i chierici hanno un ruolo speciale, il problema in Borromeo, il senso così vivo del problema dell'autorità dei chierici, della riaffermazione dell'identità dei chierici, è così importante perché i chierici sono concepiti come il cane del gregge, i cani del gregge in un progetto di salvezza generale. Per il resto, se togliamo la distinzione dei livelli di autorità, le differenze si perdono, di qua e di là dallo steccato che divide i laici dagli ecclesiastici, ci sono solo degli individui quotidianamente impegnati nella dura fatica della salvezza dell'anima, fatica nella quale debbono contare su ogni genere di aiuto che li sottragga al pericolo principale, la libertà di decidere da soli. Poi su questo torno un momento alla fine. Ora, su questo problema della collaborazione nell'evitare il tragico pericolo della libertà di decidere da soli, c'è proprio, mi ero dimenticato di dirlo prima, c'è proprio in relazione alle visite pastorali una gran messe di materiale intelligentemente raccolto ora da Cecilia Nubola in un articolo che non è stampato ma che lei gentilmente mi ha fatto leggere, che tratta proprio del problema dei rapporti fra Stato e Chiesa in relazione alle visite pastorali. La supplenza fra i due poteri, visite miste statali ecclesiastiche, anche se questo è insomma più un fatto europeo che italiano, personale visitatore anfibio, addirittura annullamenti politici delle esenzioni clericali dall'autorità dell'ordinario diocesano. Un'analisi politica, vado un po' più lento di quello che pensavo, ma comunque. Ecco, l'opportunità di un'analisi politica e non solo giurisdizionale si vede bene quando poi si studia il rapporto fra la visita e l'autorità centrale. Quindi visita pastorale, visita apostolica. Adesso dirò sicuramente qualcosa che verrà smentita da Mazzone, ma i rapporti non si intendono, diciamo, secondo una griglia istituzionale astratta. Per esempio, Borromeo riesce a fare quello che riesce a fare a Milano perché in sostanza fa un gioco di squadra col visitatore apostolico Ragazzoni, che arriva dove lui non può arrivare. Ma non è sempre così. Per esempio, nel 1586 a Taranto, il caso del vescovo Brancaccio, studiato nel libro di Vittorio De Marco, non è così. Il Brancaccio tenta inutilmente di opporsi a una visita apostolica che viene richiesta e ottenuta dal clero locale in accordo con la comunità di Taranto e un po' con tutta la popolazione della diocesi per impedirgli di lavorare. È proprio grazie alla presenza del visitatore apostolico che Brancaccio deve rinunciare al suo progetto di fare due cose che, insomma, dette così sembrano poco importanti, naturalmente sono importantissime: impedire le compravendite di domenica e costringere le zittelle ad andare alla messa la domenica. Un tipico conflitto prodotto dalla visita pastorale è quello sulle ordinazioni dei chierici. Il libro di Torre ora è venuto a ricordarci la centralità di questo tema e il carattere, uno dei caratteri importanti della visita come momento di ordinazione dei chierici contestuale alla fondazione di nuovi benefici. Questo è un caso che provoca una quantità di conflitti di giurisdizione e che però è veramente un caso tipico che si capisce solamente uscendo da una logica puramente istituzionale. Ora non sto a fare tutti gli esempi che mi ero scritto tratti dal libro di Torre su questo tema, i vari atteggiamenti dei vescovi. Ce n'è uno che a un certo punto deve scappare di notte perché la popolazione è inferocita, perché ha fatto troppi chierici. un altro che astutamente, immaginando quello che può succedere, parte da una grande, dall'organizzazione di una grande processione di pacificazione, di accordo generale. Perché? Perché naturalmente si tratta, con l'ordinazione dei chierici contestuale alla fondazione di nuovi benefici, si tratta di sottrarre all'insieme generale dei paganti le tasse, o per essere più esatti, dei paganti le tasse senza tutte le difese, le complicazioni che possono venire dal fatto di stare nella sfera ecclesiastica, si tratta di sottrarre una quota X di collaboratori. Tant'è vero che non sempre i vescovi sono, come prevalentemente sono quelli studiati per il 600 piemontese da Torre, dei grandi produttori di immunità fiscale. Brancaccio, che abbiamo appena citato, uno dei motivi di scontro con la comunità e il clero locale, che non vuole aumentare le ordinazioni. Lo stesso, un altro vescovo di tempra riformatrice, o forse bisognerebbe dire pre-riformatrice, come quel saraceno visitatore di Acerenza e Matera nel 1543, studiato in un articolo di Michelangelo Morano, Ricerche di storia sociale religiosa 88, anche lui, in accordo col feudatario del luogo, che oltretutto il suo cognato, e con il corpo civico, si oppone a nuove ordinazioni, anzi sposa a tal punto le ragioni della comunità da ordinare una generale revisione dei titoli clericali che sono già nella diocesi. Cioè, per citare ancora, per fare ancora una brevissima citazione, questa è da Torre: tutti questi elementi rendono anacronistico distinguere fra frode di registro e abuso ecclesiastico. Un'ultima tipologia di cui vorrei parlare è quella dei conflitti legati agli sforzi dei visitatori per la difesa dei beni ecclesiastici. Ogni buon visitatore naturalmente decreta per la revisione e regolamentazione dei contratti di conduzione delle terre, e questo provoca una quantità di conflitti. Questo è anche però un caso in cui si vede bene che il conflitto nasce come conflitto giurisdizionale, o si svolge come conflitto giurisdizionale, perché naturalmente nel serbatoio delle possibili scelte che ci sono, nel ventaglio delle possibili scelte che ci sono, a dire un tribunale o un altro, chi va in un tribunale, chi va in un altro, non certo come scelta di preferenza per una giurisdizione o un'altra, ma perché si sceglie la via più vicina, la via dove si ha qualche contatto, la via che sembra più ovvia. E allora la concorrenza, proprio nel senso latino del termine, delle giurisdizioni provoca anche il conflitto, ma provoca anche il conflitto giurisdizionale, ma i problemi da risolvere sono problemi, come dire, problemi di risorse. Uno studio di De Rosa sulla diocesi lucana di Campania e Satriano ha messo molto ben in chiaro che tutto il dramma della gestione dei beni ecclesiastici, i conflitti su questa gestione, nasce dalla poca chiarezza di distinzione fra beni ecclesiastici e beni privati di un chierico porzionario, una mancanza di distinzione che è tanto più grave nelle diocesi d'Italia meridionale per il sistema particolare dell'organizzazione dei beni ecclesiastici lì. Stessa situazione l'aveva trovata il saraceno nella diocesi di Acerenza. Sono due casi molto lontani nel tempo, quello di Saraceno nella seconda metà del Cinquecento, quello del vescovo Anzani, studiato da De Rosa, nel Settecento. Ma si tratta di un problema di lunghissimo termine, proprio perché non è solamente un problema istituzionale, ma è un processo di disgregazione della proprietà ecclesiastica che è legato a un processo di incubazione dei nuclei di borghesia rurale nel Mezzogiorno. io ho trovato molto utile sotto questo profilo. Raffaele Giuralongo, clero e borghesia nella Campania meridionale, che aveva, secondo me, il merito di andare a grattare su un problema roccioso, studiando l'amministrazione, studiando in modo molto preciso, molto al microscopio, l'amministrazione dei beni delle prebende della cattedrale di Matera nella pianeta moderna, dimostrando appunto che tutta l'enorme conflittualità che sta intorno a questa gestione di beni è legata al fatto che il clero è protagonista in quest'opera di formazione o protoformazione di nuclei di borghesia rurale nel Mezzogiorno. E così naturalmente in questa chiave mi pare va inteso anche un altro tipico motivo di conflitto, questo tipicamente meridionale, cioè i decreti e le scomuniche dei vescovi contro coloro che abbattono le recinzioni dei territori comuni. Anche qui il conflitto di giurisdizione va sempre inteso come un prendere una posizione o un'altra nel lento e contrastato, ma non inesistente passaggio da una conduzione comunistica a una conduzione privatistica delle terre. Questa scorsa un pochino rapsodica che ho fatto, legata poi evidentemente non a ricerche puntuali, ma a delle letture che ho fatto, per finire con due conclusioni piuttosto rapide. Ecco, la prima è che non solo non è una mia trovata, ma sembrerebbe anche una verità abbastanza triviale osservare che per la prima età moderna tutte queste questioni di rapporti fra Stato e Chiesa vanno studiate non secondo uno schema giurisdizionalistico. Però, nonostante sembrerebbe una verità triviale, non viene anche potentemente messa in discussione questa cosa. Un punto di vista che la mette in discussione è quello che rileva la straordinaria frequenza dei conflitti fra Stato e Chiesa in età moderna. E quindi trova che questa è una patente dimostrazione della inadeguatezza di qualsiasi modello che tenda a vedere un po' il condominio fra i due poteri. Mentre naturalmente il condominio per eccellenza è qualcosa che vive sul litigio. Chi ha mai partecipato a una riunione condominiale sa benissimo quanta conflittualità è generata dalla necessità di gestire insieme degli interessi comuni. Cioè, questa idea del condominio Stato-Chiesa non è qualcosa che si vuole rintracciare al di là dei conflitti, ma sulla base dei conflitti. Non solo nel senso che dicevo prima, facendo riferimento a quel vecchio articolo di Prodi, ci sono tanti conflitti, ma tendenzialmente alla lunga, prima o poi in qualche modo, per forza si devono mettere d'accordo. C'è naturalmente questa dimensione, ma c'è anche intanto la dimensione immediata. Ogni conflitto va inteso nella sua caratteristica di conflitto politico, non solo giurisdizionale, perché la situazione non è mai al grado zero, lo Stato contro la Chiesa. Quegli esempi che ho fatto prima mi pare dimostrano molto bene che non è così, che ci sono delle configurazioni di rapporti economico-sociali, politici che sono infinite, proprio perché non corrispondono. Proprio perché sono politiche e non corrispondono quindi a un modello istituzionale che si lasci definire in un modo univoco. E insomma, per farla breve, quello che succede realmente non è che il vescovo saraceno di Acerenza che vuole o il vescovo Brancaccio di De Marco che scomunica, mette l'interdetto, scomunica i magistrati di una comunità, mette l'interdetto sulla comunità perché hanno abbattuto le recinzioni, vuole affermare la giurisdizione ecclesiastica, vuole difendere le recinzioni. Quindi quello che succede, diciamo, in questi due secoli non è che lo Stato e la Chiesa si fanno la guerra. Naturalmente si fanno anche la guerra, anche se non sono lo Stato e la Chiesa che si fanno la guerra, ma insomma esiste un conflitto che si definisce come un conflitto Stato-Chiesa, ma che è intorno alla costruzione di un potere nella società e a tutte le dinamiche infinite e complesse che si scatenano intorno alla costruzione di questo potere e allo sforzo di aumento della presenza dell'autorità nella società. Così, come vedete, negli ultimi tre minuti sono pronto a concludere con una deliberata strumentalizzazione del libro di Torre, che in quanto dichiarata mi pare del tutto innocente, che è un libro che, se ce ne fosse bisogno, mi pare ora spiazza in un modo davvero radicale ogni discorso puramente istituzionale e verticistico. Il tema proprio della giurisdizione legata alle visite pastorali vi è dominante, ma in una prospettiva assolutamente, non dico neanche ribaltata, in una prospettiva che mette proprio fuori gioco, cambia il mazzo di carte, mette completamente fuori gioco la logica della contrapposizione in senso giurisdizionale Stato-Chiesa. Cioè non si parte da programmi di definizione di campi contrapposti per spiegare le pratiche di conflitto, come se queste fossero spiegate da programmi ideali di affermazione dello Stato e della Chiesa, ma dagli specifici, si parte dagli specifici moventi dei conflitti, che trovano poi espressione giuridica in una concorrenza, conflittuale o meno, di giurisdizioni, e quindi parentele, necessità di legittimazione, beh, insomma tutto quello che sta in quel libro. E naturalmente anche Torre è un avversario della proposta di intendere i rapporti fra Stato e Chiesa come un condominio di poteri, ma è un avversario nel senso opposto di quello che dicevo prima, perché questa idea gli pare in qualche modo fare inavvertitamente passare ancora per buono un modello di uno Stato e di una Chiesa reificati come due enti che sono investiti di una specie di missione storica, per cui devono recitare un ruolo. Ecco, ma naturalmente ha ragione, insomma, se fosse così io sarei perfettamente d'accordo con lui. Il problema è che, certo, esiste però una... è uno degli elementi politici in gioco la dinamica di affermazione dello Stato e della Chiesa. Sarebbe assurdo negare che appunto a partire dalla metà del Cinquecento c'è uno sforzo gigantesco da parte della Chiesa per riappropriarsi della sua identità, del suo ruolo, eccetera. Tant'è vero che poi nella realtà della sua ricerca Torre tiene benissimo conto di questo, come ne tiene conto in un articolo recente che ha fatto, che è molto legato anche questo al tema delle visite pastorali, un articolo sui vescovi d'antico regime, in cui viene fuori il tema dei confini, il vecchio problema quattrocentesco, quando insieme c'è la formazione degli stati regionali e la formazione delle province osservanti dei regolari. Allora si creano dei problemi di ridisegnazione dei confini che ancora, ho visto in quest'articolo che riguarda oramai il primo Settecento, non sono del tutto risolti, i problemi continuano per tutta l'età moderna e che naturalmente si intendono tenendo presente che poi esiste come problema politico, come realtà politica, lo sforzo dello Stato e della Chiesa per disegnare i propri confini e affermare la propria autorità in questi ambiti. E ecco, per finire ci sarebbe insomma il problema del disciplinamento, che però ormai non è il caso di affrontare ora. Non lo affrontiamo. Va bene, ringrazio molto Roberto Bizzocchi per questa. Ringrazio molto Roberto Bizzocchi per questa sua relazione che ci ha fatto cogliere così bene la complessità e anche la ricchezza di implicazione dei conflitti che si verificavano durante le visite pastorali.